giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide. Anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti. Umberto Eco. Bentrovati al Giardino Segreto, buona domenica anche da parte mia. Oggi le piante le scopriamo al computer. Lo so, non è poetico come passeggiare in un bosco o annusare i fiori in un giardino, ma può rivelarsi non solo utile, ma anche molto interessante. Non sapete quanto è possibile scoprire sui vegetali navigando, e non mi riferisco solo ai blog di giardinaggio, ai social o a Wikipedia. Tra poco, infatti, ci iscriveremo ad una piattaforma in grado di suggerirci le piante nel nostro territorio da scegliere per creare un giardino non solo bello, ma anche sostenibile, e di fornirci molte altre informazioni sui vegetali. Si tratta di una sorta di giardiniere o botanico virtuale a nostra disposizione, creato da Enea in collaborazione con la Società Botanica Italiana. Subito il computer lo utilizziamo per scavare nella storia e nel passato delle piante, perché erbe e fiori da tutto il mondo, anche secolari, continuano ad esistere negli erbari, archivi di vita vegetale che raccontano molto degli esemplari essiccati che ospitano, ma anche delle persone che in tutti i luoghi del mondo, anche più sperduti, quelle erbe le hanno raccolte, conosciute e catalogate. Adesso anche il più antico erbario del mondo, o comunque tra i più antichi, e cioè l'erbario dell'Orto Botanico di Pisa, è fruibile da casa online e anche in postazioni ad hoc nell'orto. Ce ne parla il direttore dell'Orto Botanico di Pisa, il professor Lorenzo Peruzzi. Sì, il nostro orto botanico è anche un museo, e in questo museo ci sono due postazioni multimediali dove c'è un applicativo che poi è quello che si trova anche online, ovviamente. Non siamo l'unico erbario che offre la consultazione online dei propri campioni, però siamo forse il primo che lo fa in un'ottica proprio anche alla divulgazione, quindi con una grafica un pochettino più semplice, accattivante, o almeno così speriamo, e che possa incuriosire quindi non solo i botanici di professione, ma anche gli appassionati, insomma, che abbiano interesse nei confronti della botanica. Chi veniva prima all'orto botanico difficilmente poteva consultare l'erbario, immagino. Beh sì, a parte che abbiamo moltissimi campioni, circa 350.000, quindi sono armadi su armadi per poterli conservare, e sono anche abbastanza facili a deperimento, per cui non si possono rendere accessibili regolarmente al grande pubblico. Proprio per questo abbiamo pensato che fosse importante aprire queste due stazioncine di visita virtuale, proprio per permettere a tutti di prendere contatto con questa realtà, che è una realtà comunque nel mondo diffusa, perché abbiamo in tutto il mondo circa 3.000 erotti erbari, sommando tutti i campioni che hanno sono circa 388 milioni. È una realtà scientifica che è molto diffusa in tutto il mondo, e che fra l'altro è nata anche a Pisa. La botanica era a servizio esclusivo della medicina. Luca Ghini, che fu il fondatore dell'Orto Botanico di Pisa, pensò di coltivarle per appunto averle lì tutte insieme, per poterle far studiare ai giovani medici e far prendere confidenza a loro come erano fatte queste piante. Ma c'era un dato di fatto, però, che queste piante in alcune stagioni non sono visibili perché vanno in riposo vegetativo, seccano, e da lì inventò l'utilizzo degli erbari, cioè di essiccare le piante in modo da farle durare nel tempo e renderle disponibili da essiccate in qualunque momento dell'anno, non solo nel momento in cui la pianta è in ripresa vegetativa o fiorisce o quant'altro. In modo da creare un archivio che va davvero indietro nel tempo. Gli erbari vengono consultati dagli studiosi, dagli storici, dagli studenti, un po' meno invece dalle persone comuni, che invece lo possono fare vedendo le vostre postazioni, aprendo il computer, andandolo a vedere. Cosa può regalare a chi soltanto ora si avvicina alle piante e se ne sta interessando un erbario? Beh, innanzitutto c'è proprio una sorta di curiosità anche quasi storica di alcuni aspetti, perché uno si rende conto di chi ha raccolto una pianta, in che momento, in che luogo. Infatti c'è anche una mappa che abbiamo messo a disposizione, e quindi già questo permette un po' di immedesimarsi con queste persone che appunto in vari momenti della storia della scienza botanica, dalle sue origini fino ai giorni nostri, vanno in giro per l'Italia o per il mondo e raccolgono campioni e li mettono appunto nei musei botanici. In qualche caso caso molti di questi campioni, non tutti, devo dire la verità, alcuni non sono particolarmente belli magari dal punto di vista estetico, anche se lo sono certamente dal punto di vista scientifico, e alcuni sono proprio anche quasi delle piccole opere d'arte effettivamente, cioè hanno anche un loro fascino estetico in qualche caso. Seccate, ma le piante sono ancora lì con le loro caratteristiche, sì, in alcune volte anche con delle tracce di colore. Sì, sì, se, ci sono delle tecniche anche particolari per essiccare piante che magari tendono a perdere più facilmente i colori, per mantenerli, quindi in qualche caso mantengono proprio le loro caratteristiche quasi come quando erano in natura, ovviamente rese su due dimensioni tendenzialmente anziché su tre, perché il foglio d'erbario, appunto, la pianta è pressata. Ecco, ma come si fa ad essiccarle? Nel senso, io nei miei romanzi di qualche anno fa ancora dei fiori che avevo messo tra le pagine in vacanza e che ritrovo ancora lì perfetti, ma non credo sia questa la tecnica. Non è questa, ma il principio è più o meno simile, un pochettino più strutturato rispetto a mettere un pezzo di una pianta in un libro, ma la tecnica ideata da Luca Ghini e poi perfezionata fino ai giorni nostri prevede proprio di mettere delle piante in quelle che tecnicamente vengono definite camicie, che poi spesso sono pagine singole di quotidiano di formato ridotto, quindi carta a tutti gli effetti, e queste camicie, dove in ognuna c'è una specie diversa, vengono alternate con ulteriore carta che ha funzione assorbente, quindi può essere un intero quotidiano per esempio, o comunque della carta assorbente del formato più o meno di una 3. Questi cuscinetti assorbenti devono essere sostituiti molto spesso, quasi tutti i giorni, perché altrimenti le piante poi anneriscono, ammuffiscono, comunque non si seccano in modo adeguato, e dopo 10-15 giorni abbiamo un campione d'erbario perfettamente predisposto, quindi più o meno il funzionamento è analogo a quello delle piante conservate nel libro, anche se appunto strutturato in modo un pochino più rigoroso. Di norma, quando viaggiamo, andiamo in vacanza, collezioniamo calamite, accendini, monete, cose di questo tipo. Sarebbe invece fantastico raccogliere le piante dei luoghi dove andiamo e creare il nostro piccolo erbario personale, come credo poi parecchia gente faccia. Sì, ci sono molti appassionati anche di botanica, non necessariamente accademici, anzi che spesso fanno tutt'altro nella vita come mestieri, che costituiscono degli erbari personali, spesso anche di migliaia e migliaia di specie. Ora non è detto di dover arrivare a questi estremi, però certamente è un tipo di attività che può stimolare molto la curiosità anche scientifica verso la natura. L'unica cosa, c'è da stare un po' attenti ovviamente di non raccogliere a casaccio queste piante, perché potrebbero esserci casi di piante soggette al rischio di scomparsa o comunque tutelate, però ecco, magari documentarsi un attimo da questo punto di vista prima di procedere. Piante banali, piante comuni che si trovano un po' dappertutto, non hanno nessun problema da questo punto di vista, e uno può tranquillamente costituirsi un piccolo erbario in casa che può durare anche secoli, perché appunto gli erbari più antichi sono cinquecenteschi. Ha ragione, ma parliamo del vostro erbario. Per consultarlo, erbario.unip.it. Esatto, c'è la maschera di ricerca. La maschera di ricerca, quindi posso cercare le piante per nome, ma anche per collezione, perché voi avete digitalizzato delle felci del Settecento. Sì, abbiamo per esempio digitalizzato delle importanti raccolte di felci fatte dal naturalista Giuseppe Raddi in Brasile, che furono acquisite qui a Pisa durante l'Ottocento e sono fra le collezioni più importanti che abbiamo anche dal punto di vista storico-scientifico. Stiamo lavorando sull'erbario di Michele Guadagno, che per l'appunto parlavamo prima di appassionati botanici, era in realtà un ingegnere civile di Napoli, che però in vita aveva costituito un erbario di 37.000 campioni e fu comprato all'epoca dal direttore dell'Orto Botanico di Pisa a metà del 1900, e stiamo lavorando alla digitalizzazione anche di questa collezione. Siamo all'inizio ovviamente, perché come diceva lei in apertura, abbiamo consultabili in questo momento circa 7.500 campioni, in realtà ne abbiamo 350.000. Ne avete da lavorare? C'è ancora molto da lavorare, sì, sì, sì. Quindi io attraverso il motore di ricerca posso ad esempio cercare la collezione di Giuseppe Raddi, in questo caso metto il nome. Certo, può mettere Raddi e saltano fuori le sue raccolte. Ecco, scrivendo Giuseppe Raddi possiamo emozionarci guardando campioni di felci che non solo arrivano dal Brasile ma arrivano dal passato. Sì, sì, sì. E sono sempre lì. Con tutte le informazioni anche storiche connesse, quindi veramente ogni campione del bario, a parte il valore scientifico, a parte anche l'eventuale valore estetico, ha proprio una storia da raccontare con sé, una storia anche umana molto spesso, di chi l'ha raccolto, quando, come, perché era in un luogo invece che in un altro. altro, e molto spesso sono anche questi aspetti molto, molto intriganti, ecco, per chi si trova a doverli maneggiare in qualche modo, occuparsene per lavoro. E senta, ci svela qualche campione che l'affascina particolarmente in modo che noi possiamo andarlo a cercare? La scelta è ardua. Le piante sono numerosissime come specie disponibili. Per esempio, noi abbiamo in Italia meridionale alcune popolazioni di una felce gigante che si chiama felce bulbifera o Woodwardia radicans, che sarebbe il nome scientifico, che praticamente è una felce le cui fronde sono 2 metri o 3 metri, veramente molto, cioè in natura è una pianta che non si scorda quando uno se la trova davanti. E abbiamo diversi campioni di questa pianta già consultabili, alcuni proprio di Michele, fatti da Michele Guadagno, questo ingegnere civile di cui vi parlavo prima. E quindi ecco, questa forse è una delle piante che più mi colpiscono, ecco, se proprio dovessi pensare a una, ma in realtà è così, un po' arbitrario effettivamente, perché... Beh, se colpisce il direttore dell'orto botanico un motivo assolutamente ci sarà, quindi cerchiamo felce bulbifera. Sì, il Woodwardia radicans nel... Com'è difficile, Woodwardia radicans con la W con tutte le W, tutte le che si può immaginare, sono tutte W. Woodwardia radicans. E non si sbaglia. Va bene, per ora 7500 campioni digitalizzati, ma ce ne sono 350.000 nell'erbario dell'Orto Botanico di Pisa, che poi verremo a visitare a primavera. Ah, certo, tra aprile e giugno, ecco, proprio il periodo ideale, la primavera per una visita. Tanto a Pisa in qualche modo ci si capita, e lì c'è anche l'Orto Botanico, non solo la torre. Certo, certo. Anzi, tra l'altro è vicinissimo anche a Piazza dei Miracoli, quindi uno con una sola passeggiata può coprirsi tutta la visita delle cose più note della città. Va bene, e se ha tempo anche fermarsi alle postazioni per consultare questa collezione storica, ecco. Certo, visitando il Museo Botanico, che è all'interno dell'Orto Botanico, è un piccolo museo di 2 piani, e nell'ultima stanza del primo piano sono collocate queste 2 postazioni multimediali dove uno può divertirsi a fare una piccola visita virtuale al nostro erbario, o una parte del nostro erbario, appunto, questi 7500 campioni che si incrementeranno nel tempo, ma che per ora sono un primo passo verso la completa digitalizzazione del nostro erbario. Chi vuol provare da casa, erbario.unip.it. Grazie, professor Peruzzi. Grazie a voi. Gli erbari raccontano anche la vita quotidiana delle persone legate alla scienza dei vegetali. I loro campioni, che riportano la data della raccolta, tracciano instancabilmente la vita di un uomo. Esistenze che si raccontavano lungo lo scorrere delle stagioni e dei fiori incontrati. All'ombra di ogni pianta trovavo un botanico e non sapevo se iniziare dall'uomo o dal vegetale. Marc Janson. È responsabile dell'erbario di Parigi, quello custodito nel Museo Nazionale di Storia Naturale. Sul suo lavoro, su quello dei botanici che l'hanno preceduto, sulla biodiversità, ha da poco scritto un libro, edito da Corbaccio, che vi consiglio. Si intitola Il botanista. Ci risentiamo tra un attimo. Tra poco coltiveremo piante italiane in giardino o nel nostro spazio verde di città con l'aiuto di un giardiniere a disposizione notte e giorno, è quello virtuale di Antosar Green Tool. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. Il giardino segreto. L'erbaccia è una pianta della quale non sono state ancora scoperte le virtù. Ralph Waldo Emerson. Bentornati. C'è molto da scoprire sulle piante che ci circondano, che vediamo tutti i giorni e di cui magari non solo non conosciamo il nome, ma neanche le caratteristiche. Queste e molte altre informazioni ora le possiamo ottenere attraverso una piattaforma gratuita online messa a punto da Enea insieme alla Società Botanica Italiana. Si tratta, segnatevi il nome, di Antosart Green Tool. Bentrovata al Giardino Segreto alla ricercatrice di Enea Casaccia, Federica Colucci. Sì, buongiorno. Buongiorno, io sono entusiasta di tornare a presentare questo strumento online che possiamo consultare comodamente dal nostro computer o dal nostro telefono e che ci consente non soltanto di avvicinarci al mondo delle piante e a conoscerle, ma ci consente anche, volendo, di progettare un verde sostenibile. Perché all'interno di questo strumento, di questo portale, di questo tool, come lo vogliamo chiamare, Antosar Green Tool, si presenta la flora italiana del nostro territorio, ma regione per regione, altitudine per altitudine. Sì, esatto. Il tool comprende ben 7.000 specie, quindi le specie della flora d'Italia. Possiamo percorrere tre diversi itinerari, che sono appunto quello di progettare uno spazio verde, un giardino, una aiuola, un viale, una siepe, oppure di scoprire gli utilizzi che sono legati al patrimonio della flora d'Italia e quindi, per esempio, gli utilizzi nell'alimentazione, nella tintura delle stoffe, nell'arte, nella letteratura, nella musica, oppure di trovare direttamente la specie che stiamo cercando. Ha del magico. Ha perché del magico. No, è una sorta di giardiniere virtuale, esatto, botanico. Una sorta di giardiniere virtuale, come è stato, diciamo, immediatamente ribattezzato dalla stampa. Ma anche di botanico virtuale. Sì, di botanico virtuale, perché la realizzazione di questo tool è stato possibile grazie alla Flora d'Italia, redatta dal professor Pignatti e dal professor Guarino, quindi ha una base, diciamo, molto solida, ed anche grazie al contributo di Acta Plantarum, cioè a tutte le schede botaniche che sono state gentilmente concesse da Acta Plantarum. E quindi ci sono molte, molte informazioni. Quanto avete lavorato per mettere in piedi questo strumento? Allora, molti anni, diciamo. Molti anni, l'abbiamo lanciato lo scorso anno e continuiamo comunque ovviamente a lavorarci, ad aggiornarlo, ad arricchirlo e continuiamo soprattutto a promuoverlo, ecco, perché crediamo nell'utilizzo della specie della nostra flora proprio per riportare la natura in città, nelle nostre città, nei nostri ambienti, cominciando proprio dal verde di prossimità, quindi dal giardino, dall'aiuola, dal balcone e da quello che possiamo, ecco, realizzare. Quindi io attraverso questo portale Antosart Green Tool, Antos, cioè la H tra la T e la O, Antos poi sì, è fiore in sì, greco. Sì, esatto, sì. Questo può aiutarci perché la parola non è facilissima. Non è però facilissima, no, la parola non è facilissima. Comunque Antos è fiore in greco, Antosart Green Tool, sì. Si entra, puoi già scegliere tra progetta, scopri, sì, trova. Posso scegliere tra uno di questi tre itinerari, posso selezionare per esempio se scelgo di progettare, posso selezionare la regione nella quale mi trovo, nella quale voglio realizzare il mio impianto, scegliere l'altitudine, poi scegliere che tipo di verde voglio realizzare, quindi se un'aiuola, un giardino roccioso oppure un verde pensile estensivo, un viale, una siepe o una bordura. Posso addirittura quindi selezionare, se desidero, un albero, un arbusto, un'erba, il periodo anche di fioritura, autunno, estate, inverno e primavera, la taglia della pianta e anche il colore dei fiori. E a quel punto il sistema mi indica? Il sistema mi tira fuori un set di piante e mi chiede poi ovviamente anche dei parametri ecologici, quali appunto se la pianta poi si troverà all'ombra oppure a mezza luce oppure in luce piena, la temperatura e altri parametri riferiti quindi all'ambiente dove starà, e poi mi tira fuori un set di piante. Che sono le piante del mio territorio. Che sono le piante del mio territorio, esatto. Questo significa che essendo piante del mio territorio il mio verde sarà anche più sostenibile. Sì, cioè sono piante del mio territorio, quindi abituate, diciamo, tra virgolette, a vivere in quell'ambiente, quindi hanno sicuramente un ridotto bisogno di, per esempio, di acqua. Quindi sono più sostenibili sicuramente. Giusto, quindi ognuno poi fa il suo piccolo progetto. Ognuno poi fa il suo piccolo progetto. Sì. Ognuno vuol dire anche un cittadino comune. Perché sì, non sì, questo diciamo è il tool dedicato sia ai progettisti che ai cittadini, agli amanti appunto delle piante. E ovviamente può essere utilizzato, diciamo, a più livelli, dedicato anche ai vivaisti, perché c'è una funzione, diciamo, nel momento in cui io poi seleziono le mie piante, eccetera, che mi consente anche di trovare, no, di capire dove posso reperire la pianta che sto cercando. Diciamo, questo è un invito, ecco, lanciamo un invito anche ai vivaisti a registrarsi nel nostro portale, in modo da, se hanno quelle piante, se hanno in vendita le piante che noi abbiamo selezionato, possono comunque promuovere la loro produzione. Perché delle piante, diciamo, che sono nel tool, solo 1400 specie, che poi sono contrassegnate nel tool da una fogliolina, cioè accanto quindi all'immagine della pianta c'è, cioè questa fogliolina, diciamo, possono essere utilizzate per la progettazione dello spazio verde, e mentre solo poco più di 2000 specie invece hanno anche informazioni legate all'etnobotanica, alla cultura, alla musica, eccetera. È incredibile quello che si trova in questo sistema. Come hai segnalato, anche dove andare a comprare queste piante, se tu, sì, appunto, le vuoi. Questa è una funzione che ancora, diciamo, stiamo sviluppando, perché sono i vivaisti che spontaneamente, diciamo, devono registrarsi ed indicare quale di quelle piante hanno nel loro vivaio. Assolutamente. Perché un po' il collo di bottiglia nell'utilizzo di queste specie è appunto il fatto che spesso nei vivai troviamo specie appunto esotiche, quindi provenienti da altri ambienti e non dal nostro territorio. Ecco, chi fa tutt'altro rispetto alla botanica o al giardinaggio trova veramente un tesoro in questo portale Antosar Green Tool. Quello che mi stupisce è che in realtà questo portale è dedicato ai professionisti e anche alle amministrazioni. C'è chi può pensare che in realtà le amministrazioni abbiano già i loro esperti. In realtà non è sempre così. No, non è sempre così, perché spesso poi vediamo che la selezione delle specie è fatta più su criteri magari più estetici che appunto legati invece anche al territorio circostante. Diciamo, noi siamo molto tutti affascinati dalle fioriture, no? Da altri caratteri, però non sempre poi magari sono quelle le piante che rispondono meglio al posto in cui le poniamo. Del resto, nelle nostre città ci sono degli errori anche dal punto di vista delle alberature che sono davvero dannosi all'ambiente, quindi tanti errori sono stati fatti. Ovviamente insieme ai loro tecnici, e poi è anche una modalità per promuovere una cultura del territorio, cioè proporre piante del proprio territorio è comunque un modo per fare cultura, perché poi sono le stesse piante che noi troviamo anche per esempio nei nostri dipinti, dei nostri artisti che per primi sono rimasti stupiti o comunque folgorati dalla bellezza della natura che li circondava, e quindi hanno riprodotto questi esemplari. Insomma, questo è anche un aspetto che, diciamo, spesso viene trascurato, però ponendo una pianta in una città che appartiene a quel territorio, noi possiamo, diciamo, collegarla a tutto un set di informazioni e promuovere territorio nella sua completezza, diciamo, sia dal punto di vista culturale che ambientale. Quindi anche un modo per vestire, no, tra virgolette, le piante, non mandarle più in giro nude, ma attribuirgli anche quel contenuto culturale che spesso è sottovalutato. Antosar Green Tool è un esempio di come la tecnologia possa avvicinarci alla natura e cultura, possa avvicinarci alle piante, al verde, insomma al nostro pianeta. Sì, poi ci sono, per esempio, anche sono disponibili poi per alcune specie, per un set di circa una ventina di specie, anche dei word cloud, cioè queste nuvole di parole dove ogni parola è linkata ad un contenuto, anche qui culturale, e quindi o ad un uso alimentare o a un dipinto o a un brano di poesia, eccetera. Quindi, insomma, diciamo, facilmente possiamo rivestire, ecco, la nostra pianta. Tecnologia, natura e cultura. Antosar è stato fatto da Enea in collaborazione con la Società Botanica Italiana, finanziato dal Ministero dell'Istruzione. Voi state sempre lavorando, quindi è sempre in costante aggiornamento. Sì. In costante aggiornamento, in costante promozione, perché poi anche con altri progetti ovviamente cerchiamo di portare avanti questi prodotti, insomma, che hanno bisogno sempre anche di nuove energie e di nuovi fondi. antosar.florintesa.it. Sì. Grazie a Federica Colucci, ricercatrice di Enea, per essere stata con noi. Grazie a voi. Errare è umano e dare la colpa a un computer lo è ancor di più. Robert Orben. sentiamo domenica prossima con i fiori e le piante alla radio. Vi aspetto al solito alle 15.30. Se non potete a quell'ora, riascoltate in podcast da subito dopo la messa in onda al sito radio24.it. Da Peter Bescapè, che ha curato la regia, e da Roberta Pellegatta, una buona settimana green. Se volete scrivermi, aspetto le vostre mail a ilgiardinosegreto@radio24.it.